parla, eccetera. E dopo che me l'ha raccontato, io gli ho detto alla mia ragazza, io lo facciamo anche noi, vediamo un pochettino se... E cosa faceva questo qua? Si attaccava col camion, apriva lo sportello, andava dietro, aveva il telone abbassato e si infilava come una biscia sotto il telone e entrava dentro al camion. E io ho aspettato questo momento qui, quando stavo andando dietro, anch'io sono sceso dalla macchina, l'ho preso per la gamba, però io ce l'ha fatta scappare e correva come un coniglio. Se non aveva avuto una giusta, che se era mettendo mi staccato un gambo. Guarda gli espedienti che si inventano. Ciccio, ciccio. Vabbè. Però quello che temo io, di no, temevo una volta, vabbè, quando ormai, ormai, temevo più l'eventuale rapinatore, no, che non il solo guardone. Il guardone guarda, al limite, no, si auto, già, trastulla, diciamo. Però se trovi davvero uno che arriva col coltello, peggio, che vuole rapinare. Potrebbe anche succedere una cosa del genere, sì. E si violentano la tua ragazza e poi ti rapinano pure. Oppure trovi quello un po', oh, preferisce violentare me, capito? E la ragazza che guarda e dice meglio a lui che a me. Te li immagini, Falcone col coltello, ah, ah, ti ho beccato Marco, adesso ho messo di pantaloni. Sì, non senti mai, vieni Marcolino. Oh, yeah. E vabbè, comunque questo tipo poi l'ho intravisto anche al quadrato, al tappetino, faceva sempre la stessa cosa, lo sai. Cosa aveva, un camion, un furgone? Un camion, hai detto? Sicuramente un CB, sicuramente. Aveva uno M40 rosso, targato nuvolo. Camion, ma camioncino o camion più grosso? No, uno M40, un camioncino, è poco più di un furgone, lo M40, dai. Eia, me lo guardo su internet, adesso non ce l'ho presente. Aveva un M40 telonato, e lui alzava il telone dietro, vum, si entrava come una frea. Ma di giorno, tutti i giardini correndo che ho fatto, e gli erano vicino, smetti, lascialo stare. Sì, eccolo qua, OM40, sì. Che poi c'era, credo, la versione più vecchia, credo, con i fari tondi. E qua mi compare anche con i fari rettangolari. Beh, presumo rettangolari. Eh no, palle, è sempre tondo il faro, aspetta. Sai perché sembravano rettangolari? Perché aveva le frecce più... C'aveva il telaietto tutt'uno con le frecce. No, no, c'è tondo il faro. E lui c'aveva il tipo vecchio, quello che si usa per il bestiame, solo che l'aveva telonato, capito? Di solito i pastori lo usano per portare il bestiame. Qualche pastorazzo sarà stato. Oh, oh, yeah. Qua c'è uno M dopo, uno M, cos'è, 40? Sì, c'ha il coso sopra, c'ha la cellula sopra che continua dietro, io non mi intendo queste cose, cioè c'hai la struttura rigida che continua sopra il tettuccio, cellula si chiama. Sì, cassone, come lo vuoi chiamare. Fatto sta che ci sono diversi tipi, c'è telonato, c'è furgonato, c'è praticamente col cassone libero, ce ne sono di tanti tipi, ma sempre lo M40, capito, lo fanno con diverse tipologie, c'è col frigorifero, ce ne sono tanti tipi. Sì, quello era terronato. Chi è che stava parlando sotto? No, propagazione, un segnale ho sentito. Io come ho mollato ho sentito... E comunque... Ce n'è. Bah. Aspetta, sto guardando Windows 11, ogni tanto... No, da Conad avevano richiamato un prodotto alimentare. No, non è roba che ho tratto io. A me mi è arrivato un avviso, l'altro giorno ero in casa. Non ha suonato nessuno perché io ero in casa, se no me ne sarei accorto. Poi il cane mi avvisa, quando suono viene a chiamarmi, capito? Quindi è strano. E hanno messo un avviso... non si capisce se è un pacco, se è una... non si capisce cosa sia. Però non lo puoi andare a ritirare, poi se devi avvisare, devi ripassare, non so che cosa. Io non ho ordinato nulla. Ho una raccomandata. Sì, ma il classico scontrino bianco è compilato con quella macchinetta portatile. Esatto. Sì, poi dal codice finale puoi risalire se è un pacco, se è una raccomandata, e al limite anche che tipo di raccomandata, no? Se può essere da un ente pubblico, tipo luce, gas, acqua, quello che vuoi, telefono, oppure se è roba agenzia delle entrate, se sono multe stradali, un sacco di cose. Sì, cazzalo. Ma non è ritirato già. No, e se qualcosa di importante. Se qualcosa di importante cosa fai? Se sono soldi già ti arriva dal notaio, non ti preoccupare. Vuol dire che roba da pagare. Io sto pensando che sia l'INPS. No. A me, a parte che l'INPS, a me qualsiasi cosa me la manda sul sito, sulla cassetta postale. Qualsiasi cosa. Io entro nella cassetta postale dell'INPS e c'è tutto lì, capito? Che io non ne ho cassetta postale. A me me la manda sempre o con raccomandata o come lettera normale. Ah, ma non si è registrato perché all'INPS? No. Bravo, sì. Io ho l'applicazione dell'INPS. Entro lì, infatti io tutto quello che lo sapevo appunto man mano che guardavo lì e sapevo come stava andando tutto quanto, capito? C'è la cassetta postale, entri lì e ti leggi tutto quello che ti riguarda. Tanto quello che ti arriva via posta te lo mettono lì loro. Ma non so come ci faccia, non l'ho mai fatto. Scarica l'applicazione intanto, INPS Mobile. Poste mobile? INPS. Ah, INPS, giusto. Guarda quanto è comoda. Poi c'è un'altra applicazione addirittura dove io da questa applicazione so tutti i recuperi che ho fatto da qui a 20 anni fa, tutte le medicine che ho comprato da 20 anni fa a ieri, tutte le visite che ho fatto, qualsiasi visita dalla neurologia per dire, qualsiasi visita, io entro su WhatsApp e mi fa vedere tutte le visite, tutte le medicine che ho comprato, in quale farmacia le ho comprate. Guarda, è una figata questa applicazione qua, lo stesso. Cioè, se ti serve sapere, cazzo, quando che ho fatto la risonanza nel 2005, per dire, entri nell'app e ti dice perché l'hai fatta, che ora l'hai fatta, perché è bella. Ecco, quello sì, questo delle visite, quando l'hai fatta, dove l'hai fatta, come l'hai fatta, questo è interessante. E anche le medicine prese, sì. Può essere interessante quello lì. Caspita, io te l'ho detto, guardo, mi dice in che farmacia le ho ritirate, mi dice quando ho fatto quella determinata visita, a che ora, in che ospedale. È un'applicazione veramente, basta che ti registri e lui in automatico, poi quando tu entri e scrivi anche direttamente la visita, per dire una visita, determinata visita, lui ti cerca tutte le visite che hai fatto, le domande che hai fatto, se ne hai fatto, eccetera. Buono sapersi. Ma Manuele era andato via? Si doveva preparare ad andare oppure? Non lo so, aspetta, la domanda vai su al telefono, questa applicazione, magari la trovi, molto comoda. Mandala Gianni prima di tutto, che magari è lui è più importante per lui. No, oh, quella dell'INPS sì, l'altra non mi interessa, tanto c'è tutto quanto, c'è tutte le cartucce. Già, tanto c'è tutte le cartelle, ma se non trovi una cartella vai sull'app, capito? Vai sull'applicazione, prendi e te la stampi, capito? In casa a volte, chissà di cerimonie, visite che hai fatto nel 2000 per dire, eccetera, eccetera. Tu a me non mi conosci, io c'ho tutto catalogato anno per anno, scritte le date, tutto quanto catalogato sulle cartelle e ce le ho messe tutte e quattro in un raccoglitore, quindi quando io voglio anno per anno vado e cerco. Niente, no, io ho tutto in una cartella, però quando mi serve entro nell'app. A quanto so, guarda, andare da una camera all'altra per una cartella l'ho già visto. No, no, ma ti vuole che siete più ordinati. No, qua è un caso, qua ogni tanto le cartelle mie le uso come sotto bicchieri, sotto piatti, certe volte le piego, le uso per quando balla la gamba del tavolo per fare spessore. Io ho tutto catalogato, bollette telefoniche, e non c'ha l'applicazione dell'INPS, hai tutto e non hai l'applicazione ancora dell'INPS, aiuta dai. E Luca, io non so come si faccia, non ne ho fatto, se no me l'avrei fatta anch'io. L'applicazione di scaricare non ti fa fare nulla, però è molto, molto comoda. Io vabbè, quella cosa di ogni mese guardo, il 20 hanno già caricato, mi dice l'importo, voglio sapere tutto il resto, me lo dice, capito? No, è più comoda così, capito già, è più comodo così tramite il sito dell'INPS. Quello sì, perché a me c'è durino per dire non me ne mandano ogni mese. C'è gente che li riceve, c'è durino, tu lo ricevi? Io entro nell'app, vai, mi dice, poi va nella cosa, pensione, cedolini, pagamenti, entri lì e ti fa vedere anche io, te l'ho detto, il 20, guarda, c'ho già quello che mi versano ogni mese, senza preoccuparmi di se l'hanno messo, se non l'hanno messo, quanto hanno messo, basta che entro lì, come a dicembre c'è quella diversa, eccetera, eccetera. Mi, Gianni, a noi, per esempio, mamma, c'è quella interessata, no? Io per il fisco poi non esisto nemmeno, non gli arriva in automatico, però lo scarichiamo dal sito dell'INPS, cioè non abbiamo l'applicazione, lo facciamo dal computer, scegliamo il mese e scarichiamo il cedolino. Devi entrare con Speedy, naturalmente entri con Speedy, poi lì, poi cosa c'hai non lo so, una volta che entri lì, boh, basta, sei a posto. Ce l'ha lo Speed. Non c'è? Esatto, Speed. Non ce l'hai già? Ma quello che rilasciava dalla farmacia? Ma io l'ho fatto in posta, non so se lo rilascio anche la farmacia adesso. Non l'ho fatto. Va in posta e te lo fa, io l'ho fatto in posta. Dice adesso si paga qualcosina, non so, boh, prima non si pagava niente. Continuate che sto parlando un attimo con me nel tappa. Più che altro per mamma l'ho fatta, cioè mia zia l'aveva già fatto, mi ha invogliato a farlo, però lo facciamo col computer, quello blindatissimo, nemmeno con questo cellulare che adesso è un po' obsoleto. Va bene. E già sono comode queste applicazioni, adesso voi dico una cosa a Gianni, no, quando rientro. Metti che sai, con questi baracchini qua, cortocircuito oppure un fulmine sull'antenna, gli piglia fuoco l'appartamento e perde tutte le cartelle, no? La documentazione. Ah, ma io quanto fa andare in camera? Prende a cercare la cartella del 95 per dire, o del 2000, entra a cercarmi la cartella con la determinata abilio cellulare, tanto so che già dentro. Scrivo anno 2005, boh, so che già dentro. Aspetta, dopo glielo dico. Capito, lui invece è previdente, c'ha già l'applicazione, se c'è un'urgenza c'è già tutto sull'applicazione, vita, morte, miracoli. Sì, ma... Poi Gianni, ho detto, quando si avrà l'applicazione avrà tutto, saprà vita, morte, miracoli già dall'applicazione, in un palmo di mano c'è tutto, capito? Perché le scartoffie anche a me non piacciono, questa carta stampata, poi quando ne hai tanti cazzo non sa più dove metterli. Ma guarda, io in 3 secondi sono già dentro il cedolino, no? E mi fa vedere il cedolino di questo del 1° di giugno, capito? Perché no, ci vuole un batte secondo, devi solo mettere il pin del cose, boom, quando ti fa entrare, o se di basta, non devi fare altro. No, ecco lo dice, sia la per dell'INPS che quell'altra app. Grazie, quando me l'hanno detto, questa me l'aveva detto un avvocato, mi ha detto guardi, faccia così lì, sta giù. Oh, cosa c'è qua? Tutto il mondo sanitario c'è, veramente, ti dice la farmacia dove si è andato a prendere quelle medicine, quando ci si è andato, a che ora si è entrato, a che ora hai fatto quella visita. Oh, è una figata. Vediamo se Emanuele è rientrato. Nulla. Natalino, c'è l'ascolto? Marco. Non ho capito se ci vuole. Quello spintinino non l'ho fatto. Tu fatto l'hai, Marco? Per mamma, sì. L'avevo fatto per mamma con l'aiuto di mia zia che sapeva già come cominciare. Se mi chiedi come la prassi già non me la ricordo più. Però credo che con l'applicazione, che a Luca non serve nemmeno lo Speed, boh, forse è diversa. Oh Luca, cosa sai dire? Cioè tu scarichi l'applicazione E poi cosa fai però? Devi mettere i dati personali o cos'altro si fa? Entri nell'applicazione e ti dice entra con SPID, capito? Oppure con carta d'identità elettronica, quelle robe lì. Io ho lo SPID, entro con lo SPID, digito il codice e sono già dentro all'INPS. Adesso sono già appunto dentro, data valuta 01-06-2023, prestazione 6-2023, c'è già tutto fatto. Data valuta 01-06. Ehi, Gianni, non hai sentito quello prima? Eri distratto, no? Stavo parlando con mio nipote, però intanto io non ho la stampante, cosa faccio? Non me lo posso stampare. E vabbè, quello è... No, ma dicevo, è utile averlo anche sullo smartphone, perché sai, metti un cortocircuito, poi con questi baracchini, un fulmine dall'antenna, piglia fuoco l'appartamento, almeno tu prontamente, previdente, ce l'hai già tutto su smartphone. Ma scusatemino, sei dal medico, no? Sei dal medico, ti dice il medico, ma questa visita fatta l'avevi, no? Un caso. Non lo so, tacca per il telefono, pronto dottore, ecco qua la visita che ho fatto, questi sono, cioè c'è tutto, capito? La comodità anche. Non è che dice, no, aspetti che vado a casa, prendo la cartella, cerco la cartella del 2000, cerco il foglio, poi ritorno. Cioè. Ma non so. È più comodo, sì. Tu scaricati l'app e poi vai domani mattina in posta, non so se lo fanno anche in farmacia lo SPID, ma ecco, lo SPID è per tutto ormai, ormai non può entrare da nessuna parte senza lo SPID, capito? Già, qualsiasi cosa del comune anche eccetera, se no per lo SPID, oppure vai in posta, 10 minuti te lo fanno. E che cosa ci vuole? I documenti tuoi, non ci vuole altro. Ti preparano tutto, ti dicono di scegliere una password, la metti e poi ti registri alla scarichi l'app dell'INPS intanto e ti chiede lo SPID, entri con lo SPID e c'hai tutta la tua documentazione possibile e immaginabile e anche altri documenti che riguardano dell'INPS sempre. Ecco, prego. Avanti. Buonasera a tutti. Buonasera. Ascolta, già, io l'ho fatto. L'ho fatto nella farmacia del città mercato, 3 euro, vai col codice fiscale e ti dà il PIN, anche all'Ipunti lo fanno, la farmacia che c'è all'Ipunti, 3 euro spendi e ti danno il codice PIN del corso. Poi sono andato lì all'Ipunti dove c'è un ufficio urbano, c'è un ufficio, paghi 20 euro e ti fa tutto e te lo si dice direttamente nel telefono, lo spinti, ti fa tutto lui, capito questo qua, e te lo mette direttamente nel telefono, capito, già tutto le cose sue, te lo fa le 20 euro, paghi, e in 2 ore, 5 minuti di farmacia, 23 euro in tutto lo spinti. Ehi, non ti avevo riconosciuto, buonasera, scusami, ma no, non ti avevo proprio riconosciuto. È positivo, dai, positivo. Cappa, me l'ha entrato, dai, dopo tanto tempo. Come mai non stavi più entrandoci? Ma a parte che a volte accendo e non c'è nessuno, perché in orario di... Adesso ho acceso così perché di domenica pomeriggio, no, perché da quando ho passato l'antenna ho lasciato a passa da partire dal negozio, allora no... Non accendo mai, capito? Ah, dai fastidio al negozio, di nuovo, mamma mia. Sì, c'è manca il radiale, era passata l'antenna, poi l'ho lasciata a fatto, non ho più sollevata, capito? Ma il radiale, G, non ci vuole nulla, vai da cosa, da Bricome, compri le stecche, prendi le misure e li metti, cosa ci vuole? L'ho fatto io. Sì, le ho comprate pure io. Ho comprato l'abrico, però ho recuperato anche quelle che ne sono cadute, intanto sono caduti dentro il cortile, li ho trovati, no? Ho recuperato anche quelle che sono cadute. Li ho comprati, ce le ho, però non ci sono più salite, non ho intenzione di mettere a smontare, a fare e a sollevarla, perché non la sollevo più, adesso l'ho passata e così rimane. Non è più gara, è positiva, sto facendo altre cosette, no? Non mi interessa, sì, qualche riparazionina faccio così, a qualche amico, qualche cosetta così, ma non faccio altro, no, niente proprio. Avanti, ho capito già cosa devi fare. Fa fallo, che ti troverai bene. E magari lo fa pure la mia farmacia, perché fa anche altre cose, cambio di medico, eccetera. Però non so se lo faccia la farmacia mia. Allora già, io avevo chiesto, poi sapevo che le faceva di farmacia, mi hanno detto questo, sono andato lì all'impuntio, mi ha detto guarda la fa questa è della vicino alla chiesa, e lì l'ho fatto per mia moglie, e più alla città mercato, e poi ce ne sarà qualche un'altra, non so chi, non sono tutte, comunque la città mercato lo fanno, poi se quella vicina a casa tua lì all'impuntio lo fanno, e questo è comodissimo lì all'impuntio. Ci ho mandato un amico l'altro giorno, è andato e ti dà, gli ha detto vieni per esempio domani sera a tale ora, e gliel'ha fatto, capito? Ho capito. Cara gara, ma vabbè, lo vedremo. Perché io non sapevo se quello che ti rilasciava la farmacia quando cambiavi medico, eccetera, eccetera, perché c'è un numero, però non lo so se è quello lì. Allora, ci vuole il coso, la carta d'identità elettronica c'hai. Se c'è quella c'è anche il PIN di quella lì, Sì, c'ho quella elettronica. Ecco, anch'io c'ho quella elettronica, e quello mi ha detto, dice, quanto costa 3 euro, dice, che è più completo, fatti dare, dice, vai in farmacia, e che è quello che si fa alle poste, la stessa cosa. Vai in farmacia e ti fa rilasciare il PIN del codice fiscale. Ci mette un secondo, ti dai il codice fiscale e ti dà una busta chiusa che c'è solo il PIN. E da inserire, capito? Ho capito, sì. Acciugavito. Avanti Marco. Marco si è parato. Luca. Ma c'era anche Emanuele. Cosa? Adesso c'era anche Emanuele. Ma questa alternata che hai? Uso bugia. È il microfono. Il microfono. Guarda adesso se c'è. Perfetto. È il microfono. Allora. Neanche di quello. Aspetta, quello sono io. Come lo tengo vicino all'apparecchio, fa quell'alternata lì. Se invece lo sposto, lo metto sulla mia pancia, quando sono coricato, o sul letto, cosa non ne fa più. Aspetta, guarda, ce n'è di quelle ferriti, dovrei averne una cinquantina. No, ma basta metterci un cavo di massa. Io l'avevo fatto già in un altro apparecchio che faceva il fischio addirittura. Ho messo un cavo di massa dall'uscita del microfono sino all'entrata nell'apparecchio e non lo faceva più. Come l'hai messo? Perché veramente cioè quando pare lo copri, però quegli attimi magari è uscito lo so, già curato. A me facendolo, sapete, io ho una sola ferrite all'uscita, non credo che lo stia facendo. No, te non te lo fa. Ma manco a me se lo tengo distaccato dall'apparecchio non lo fa. No, io ce l'ho a 15 cm dall'apparecchio, perché questa è una scrivania da computer, capito? Così che è a 15 cm. E dove l'hai messa la ferrita? All'uscita del microfono, aspetta se mando la foto. Gada. Va bene, Gigi, riprendi. È positivo, ma l'uscita di dove? Di solito decida lo spinotto che attacca lì all'uscita, sarà lì che gliel'ha messa. Dopo c'è lo spinotto all'interno, però l'avrà messo del baracchino, non so se l'ha messo nel cavo del microfono, penso. No, penso che sia l'uscita lì, che l'abbia messa all'uscita, capito? Ma io già l'avevo fatto una volta, avevo messo un filo che lo facevo passare dentro, non si vedeva nulla perché lo facevo passare dentro la molla, diciamo, del filo del microfono, e si vedeva solo la parte che attaccava al microfono, all'entrata del microfono, nello spinotto. Però si vedeva pochissimo, non si vedeva quasi nulla. È positivo. Di solito lo mettono nell'ingresso della corrente, della massa, del capo, a parte che anche nella cassa fa molto, e se la metti anche nel cavo della cassa, fa molto la ferrita, un po' di radiofrequenza le toglie, capito. E solito ripeto anche di solito ci sono già dentro gli apparati, secondo certi apparati, se no gliele mettono dentro queste le ferrite, capito? E vedi che a volte passavo io in camion dove c'erano cavi elettrici, che sentivi tutto il rumore, invece fatto così, no, con questa ferrite no, sentivi questi rumori, dei motorini, quelle AP50, certo, non li vedevi, li sentivi nel baracchino, ma fatto quel lavoro non li sentivi più. Rientrato. Eia, riprendi la Marco, mi è entrato Gigi Vulcano. Eia, ciao Luigi, dopo tanto, ben sentito. Segnale vedo che è sempre quello, quindi buono, dai. Buona l'antenna sia da parte mia che da parte tua. E rilancio Luca se c'è ancora, che vado a bere un attimino. È andato a mandarmi come ha fatto la ferrite per il microfono, per non fare questa alternata di cavolo che fa. Eia, ciao Marco, dai, è andata bene. Ma non deve fare le radiofrequenze, serve o... fa molto, lo sai. Sì, non mettono da molte parti. Io lo trovo anche a volte in quei caricabatterie tipo quelli del telefono, così. C'è la ferrite che passa. Sì, anche quelle alimentatori, nel televisore è pieno, dentro il televisore è pieno di quelle lì. È pieno di... ma anche quelli alimentatori switch che sono rotti e cose di... quelli è pieno di ferrite, anche le computer ce l'hanno, allora, sono pieni. Sì, perché fanno da filtro, capito? Si tolgono molti rumori. Sì, un po'. Però a volte anche dove c'è il coso, dove c'è il finale, il coso, gli mettono una bella barriera di alluminio, di coso, di... gli fanno un rivestimento e a volte qualcuno per fare modifiche lo toglie e quello dà fastidio, invece ho visto io che protegge molto, gli fanno una specie di barriera tra i finali e il coso, come c'era quella Lara 48, se non c'è una specie di barriera, però gliela fanno apposta e so che limita, non vedi queste radiofrequenze le toglie. Sì, in alluminio, sì, ma l'ho visto in diversi apparecchi l'ho visto. Gigi, quelli del 45 li stai sentendo sempre? Sentendo qualcuno, lo vedo quando capita. Ah, di quelli di fuori quasi niente, no. No, al telefono qualcuno, quelli proprio gli amici che avevo all'epoca, quelli già li sento sempre, li sentiamo sempre, però al telefono sono a baracchino. Ho capito, magari sono tutti sotto a baracchino adesso, sono tutti col telefonino adesso. Ti sei inceppata la portante. Lo so, perché ho toccato il lock, lo stavo guardando e ho messo quello fisso. No, io ho acceso il più scarso che c'ho di baracchino. Il più scarso che c'ho acceso quello lì. Non esci bene lo stesso, esci bene. È la tua voce come al naturale. Che baracchino è? Se non me lo ricordo. Da tre ne avevo fatto uno. Comunque sono uguali, Inter che ha fatto Fayette, il Midland, sono uguali, dai. Sono quelli antichi però sono uguali. Perché questo era del Midland, una cosa del genere, quelli vecchi. Questo però adesso il frontalino gli avevo messo io. Sono tutti precisi, anche l'ho cambiato con perché frontalino, capito, gli ho messo dell'Intec, però è uguale all'altro che ce l'ho da una parte lì, capito? Questo era più nuovo e l'ho messo questo, però sono precisi gemelli, capito? Uno è Intec e l'altro è Fayette, tutte e tre li ho avuti, tutte e tre, capito? Li ho avuti tutte e tre, infatti ne ho tre di questi qua. E da tre ne ho fatto uno. Un ibrido. Ma è tutto preciso, non cambia nulla, capito? Sono gemelli qua e sono molto ciccati, no? Sono gemelli. Capito, l'interno è uguale, dai. Ho capito com'è. Cosa ti stavo dicendo, G? Di modificati, non te ne è rimasto nulla? Sì, già ne ho tenuti cose, ma ne ho dato, ultimamente ne ho dato via parecchie, ne ho tenuto modificati, ne ho... Sì, c'è di ben rifornito. Sì, ne ho. Giustamente non le metto tutti, no. Capito, no. C'è da non fare, sempre l'Araconatotto famoso ce l'ho, c'ho niente K, no, già ce ne ho fatto, 48 ne ho due addirittura. Ho capito. Guarda a vedere se così, allontanandolo un po', fa lo stesso l'alternata. Sì, lo fa. Così, guarda. Sì, ma una cosa non è molto, io vabbè non so questo se l'ho tutto bene, come si dice, attenuato per non sentire rumori, diciamo, per essere più selettivo, non la sento molto, si sente sì che c'è un'alternanza, però non stai parlando, non la senti, solo quando tieni il coso fermo, però non si sente neanche, non è che ti noti molto, dai. Ehi, lo so che è così, ma mi dà fastidio, perché se la metto sulla gamba non si sente, se la metto sul letto non si sente, se la metto vicino all'apparecchio lo fa di nuovo. Ma scusa, perché non gli metti la colonnina e ce la metti allontana dall'apparato, se la metti a distanza la colonnina? O cosa c'hai tu, le cuffie, no? No, oh, c'ho la colonnina. Ma la colonnina di che cosa? Il baracchino o esterna ce l'hai? Esterna. Se allontani la colonnina, no, la colonnina deve allontanare, non il baracchino. Ma aspetta che io la stacco la colonnina, così mi dici se lo fa. Gì, guarda, la colonnina ora l'ho staccata, c'ho quella del baracchino. La fa di meno, molto, molto di meno. Oh, e quindi è la colonnina secondo te? No, lo fa lo stesso, però di meno, lo fa lo stesso, però di meno. Ma lo so per come mai, ma ce l'hai lontana l'altra la colonnina. È lontana, diciamo che è a fianco. Guarda, adesso è sopra la gamba. Non si sente nulla e la radio è sempre bella, non si cambia nulla la radio, attenzione, non cambia niente, è sempre perfetta, anzi migliore, più chiara pure. Devo fare quello che ho fatto nell'altro microfono, mettergli un cavo, farlo passare dentro lo spiralatto e farlo uscire dall'altra parte, e così non lo fa più. Dipende che radio ti ha adoperato, che cos'è quella? È un K. Ah, un K, Hai capito? Sì, e poi c'è il microfono anche amplificato. Sì, il microfono amplificato, è l'MC60. Sì, già, l'MC60, già lo conosco. Vabbè, ma quello non c'è bisogno di avvicinarselo, è l'MC60, E poi ti pare che funziona, quella radio funziona pure a distanza di 5 metri, 4-5 metri, se non so, e se non di più pure. E infatti sono distante un braccio, io adesso sto parlando con la distanza di un braccio. Sì. No, ma è in poche parole perché è l'amplificazione delle cose, ho detto, questa cosa qua. Io lo tenevo vicino alla radio, la radio era la colonnina sua, non avevo esterna la radio, mi pare che avevi venduta tu quella radio lì, avevi venduto tu quella radio con l'MC60. E poi tu l'avevi data, mi pare, in cambio, non ti piaceva. E poi non me ne ricordo cosa l'ho fatto. Dove avevo data Claudio, poi non so che me ne abbia fatto. E il cambio avevi fatto, sì. Ci avevano dato l'S9, mi pare. Un S9. No, l'S9 era mio. L'S9 ce l'avevo io. Non me lo ricordo cosa mi aveva tornato. Mi pare che mi aveva tornato... Non me lo ricordo, qua. E non è necessario, fregato. Ma è così, no, ma non l'S9, no, perché l'S9 ce l'avevo già io. Poi l'avevo regalato a Palmirio. A Palmirio per nipote, no, e non è andato da nessuno quell'S9, a quanto mi ricordi. Poi l'aveva venduto Palmirio, l'aveva data a Costanzo, poi è tornato a chi l'aveva fatto quelle senofe, è andata a finire ovviamente a chi l'aveva modificato, l'hanno mandato per fare cose, no, gliel'ha pagato, gliel'ha preso, dice non me lo tengo io, che viene adesso il nome, là. Cambiato radio, si è capito? Sì. E questo è il Galaxy Saturn Echo. Ma va bene anche questo, c'è una bella radio anche questo, Poi ne ho uno che è una bomba. Il Cobra di Free. c'ha la pancia sotto e dietro, esce con 120. Ah sì, ma aspetta, quale c'hai tu? Attenzione, attenzione, canale 10, Gianni, doppio rum, cambio! Magno, S9, l'ho fatto arrivare anche il Cobra, quello con la pancia sotto, che usciva con 100. Attento, Luca di Sassari, l'amico mio, attento, cambio! Della zona di Cagliari, che buongiorno, ma c'è sta chiamando. Oggi non c'è nessuno là, sono tutti alla festa Polo Torres. Un attimino che c'è Eugenio che sta chiamando, sta facendo un casinonello. Avanti Eugenio. Bella, buonasera. E allora? Ciao Eugenio, ciao, mi hai sentito, dai. C'era Gigi che stava aspettando che smettesse di parlare per rilanciarti, ma tu sei proprio parti a raso in quarta. Come mai non sei alla festa a Polo Torres? Ieri notte sono andato, ma lascia perdere Gigi. Ho dovuto mettere la macchina, sai dove? Dove c'è l'elettrauto da Mario, dove c'è l'elettrauto che a fianco c'è il gommista. Ho dovuto mettere la macchina lì, quello spiazzo dove mettono le macchine loro che aggiustano. E parmela tutta a piedi, guarda, uno strazio. Quando dovevo ritornare ero stanco morto. Ah, e vabbè, non mi parlare di camminate, perché se ti dico cosa ho fatto io oggi, la Sabildi. Oh, io ho già fatto un'escursione, mamma mia. Comunque c'è la gente, no? Invaso di gente. Eugenio, non ve la lungo a camminare. Io non ho mai visto gente così tanta alla festa di San Gavino. Sì, sempre ce n'era tanta, però come questa volta, perché c'erano anche le vibrazioni, con la scusa c'erano le vibrazioni, ha raddoppiato la gente, sono triplicato. Danni, rientro subito. Quest'anno ho fatto le cose in grande, dai. Hanno fatto le cose in grande con le vibrazioni. E vabbè, ma ci sei solo tu? No, c'era Gigi, c'è Marco Condor, c'è Luca Flipper, insomma ce n'è di gente. Avanti, avanti, va. Ciao, ciao Eugenio, aspetta che abbassa il volume qua, che mi fa rientro. Ciao, ben sentito. Forse Gigi non lo copiavi dalla barra mobile. Gianni, cosa ti volevo dire? Io non mi sarei accorto nemmeno dell'alternata se non l'avessi letto coso, perché io uso un volume di ricezione abbastanza basso per non disturbare qua, tant'è che non mi ero accorto di niente. Ma sì, se mi serve una cosa io chiamo aiuto e nessuno mi risponde. Dovete tenere il volume dell'apparato a manetta. Sì, così poi tu abiti a condominio, noi abitiamo in condominio. Se non tengo a manetta mi va la litigata e rompi i ricatti. Collegato il volume del baracchino a quegli altoparlanti RCF, quelli dei comizi. Oh, ma niente, mi sapete dire dell'incidente che è successo alla rotatura del Bricomen? È morto un ragazzo, quello della moto. Un ragazzo è morto e la tipa è fin di vita. Caspita, un casino allora. Un casino. Ecco, ci sto passando proprio adesso, alla rotatura del Bricomen. Mamma mia, oh. Lui è di Usini, se è quello che sto dicendo io, ieri è successo. Sì, vabbè, è successo ieri, sì. Ma c'è una macchina, era a contromano. Non lo so, io ho sentito dire solo che lui ha perso il controllo. Al televisore hanno detto così, che lui ha perso il controllo della moto. Ah, ho capito. Vabbè. Purtroppo sono cose che succedono. Ehi, ne ho visto uno davanti a me, un giorno ero in moto, mi ha sorpassato questo qua, all'entrata proprio in Porto Torres, dove c'è scritto benvenuti a Porto Torres, Porto Torres, anzi c'è scritto nel giardino. Lì c'era un fosso, ha preso questo fosso con la ruota di davanti, ha cominciato a sculettare la moto, non so come abbiamo fatto a tenerla, le ha sculettato 3 o 4 volte. Purtroppo la moto è fatta anche di questo, è bello perché è così. C'è il nome di quello che è morto, di Usini, sì è vero. È una moto rossa e nera, stradale, da corsa, come la volete chiamare. Rossa e nera, CBR? Probabile CBR, va bene. Ah. comunque ragazzi, perché siete a casa e non siete a Prodottore a farvi la festa? Ah, io c'ho mamma invalida e non posso uscire, se non trovo il cambio. Vabbè, tu Marco sei scusato. Il signor Gianni Rocchetto è andato alla festa del Prodottore, sa tutti già i santi. Ma Gianni ha già dato ieri. Che sono andato ieri, mi ho fatto tutte le bancarelle, tutto un casino che vera, no? Io qua sopporto un poco quando c'è molta gente, mi dà fastidio, non lo so perché, mi irrita. Infatti dopo al ritorno ho preso un'altra strada, sono passato da Vietore Sacchi, perché mi dava fastidio passare di lungo mezzo alle bancarelle con tutta quella folla che c'era, non mi piace tanto oggi quando c'è molta ressa. Ah, va bene, dai, andate, l'importante è che ci sei sceso, dai. E Tino, mi ascolti? Tino, ma vuoi dire Luigi Vulcano? Ok, stavo parlando poco fa, non era Tino. Era Gigi Vulcano. Ah, io Gigi Vulcano lo conosco, la mulatta di Gigi Vulcano la conosco. Tino non c'è entrato stasera qua. Luigi, puoi riprendere? Ma ha chiuso? Ah, boh, non lo so. Ha detto un attimino che si sentava, però non so se ha chiuso adesso. Ha pagato. Vabbè, cosa ti stavo dicendo? Ieri c'era un casino nero, non c'era posto, manco, non potevi spostarti da un punto all'altro, tutto pieno di gente, ma una ressa allucinante, troppa gente c'è. No, così mi viene la claustrofobia. Forse anche a me, mi dà un bel fastidio quando c'è troppa gente. Poi da qualsiasi parte andavi ce n'era, le bancarelle erano piene, per passare dove c'erano le bancarelle dovevi farti la spintura. Poi, poi piazza lo stesso tutto pieno, scendevi giù dove c'erano le vibrazioni, non se ne parla, tutta via mare era tutta completamente, sembravano formiche. Marco, sempre apparato di alla fessura, guarda quanto fa bene. Ah, quello lì è sempre quello, ti ho detto, io non sono una parola, guarda la devo dare, lo ridò a te e tu ne farai quello che vuoi. Come vuoi Eugenio, però se c'è qualcuno magari che ne ha bisogno, regalalo per regalarlo a me, lo dai a chi ne ha bisogno. Anch'io quando avevo baracchini che non usavo, li davo, a Pomponio ne avevo dati tre o quattro, no, uno l'ha pagato perché non era per lui. Cioè me ne disfavo anch'io, quando li usavo me ne disfavo, capito? Poi funzionanti li davo, certo non andavo a correre. Volevo chiedere, ma Luca è rientrato, Luca Flipper? Ci sono Marco, ma sto facendo roba, sto finendo questo accordatore, lasciando Massilla ancora questo al quale mi serve. Capa, dai, sto ascoltando comunque. Ciao Eugenio, se mi ascolti, non credo però. Ciao. No, non ti ha risposto Luca. Come mai? Ma dov'è Eugenio? È arrivato basso? Dove sei arrivato Eugenio? Adesso sono una discesa, sto facendo Santa Maria, quindi sono un po' forte. Santiago 6 diciamo. Io vabbè, ho attaccato perché sono piccolo e nero e se no non mi sente nessuno a me. Ma me lo sono immaginato, Neia. E che antenna avevi tu? Non mi ricordo che antenna avevi. Una midline. Una midline, capito? Sono sulla capota del camper. Ah sì, col camper, allora è roba un po' corta, compatta, dai. Gianni, fai le ponte. Ha detto che è lunga circa 1,20 m. Ah, ok, vabbè, 1,20 m già andava, dai. Certo, la capota e per la massa come hai risolto? Gli hai fatto una terra riportata o gli hai messo quella massa artificiale che vendono pronta? Oh, l'impianto è fatto da casa, capito? Io solamente ho cambiato antenna, l'impianto è fatto da casa. Ok, hai messo solo l'antenna. Ah no, no, proprio è tutto compreso, dai, ok. Va bene, sì, sicuramente era un filo, una massa riportata, un cavo che arriva fino alla massa, alla basetta dell'antenna e va al telaio poi, dai, dal mezzo. Vediamo se è rientrato Gigi Vulcano. Niente, tutti spariti. Emanuele, vabbè, Emanuele è forse andato a lavoro, boh, non lo so. Luca sta creando. Ho già, l'avevi capito prima, quando ti avevo detto dell'Inps, degli incendi. C'è appena appena di propagazione che sta cominciando a fiorare, piano piano, però sta cominciando a spuntare. Dimmi tutto. Boh, non sento risposta. Non sto uscendo, sì, sì. Gianni è impegnato, Luca è impegnato. Vabbè, Eugenio sta guidando. Vabbè, Bianco, dai. Lasciami il tempo di rispondere, ga. Stavo cambiando apparecchio. Ti ho detto, prima mi hai sentito quando parlavamo dell'applicazione dell'Inps, che ho detto, sai, fulmini, cortocircuiti. Già ho sentito, ho fatto finta di nulla. Non ti sei toccato, non hai toccato ferro, no? Ah, no, c'avevo i gemellini in mano. Ah, ecco. Ma poi, quando parlavate tu e Luigi, ho sentito in lontananza queste scariche elettriche brevissime e immediate, tipo lampo. Ma non è che all'orizzonte c'è qualche temporale, no? Che io non, da qua non lo vedo. Cavolo, ma anche a Campeda c'è stata quella grandinata, non so se l'avete vista, ha anche attaccato alla strada, tutti i bordi, la strada era tutta piena di grandine, una bella grandinata di quelle grandini grosse. Come mi ascolti, Eugenio? E dove sei adesso? Ah, ho capito. Intanto ho visto già nubifragio lì, Ardara e coso, e i fulmini arrivavano fin qua, cioè io non sentivo tuoni, non sentivo sta scarichetta, sta proprio secche, e praticamente è quello, sì, il baracchino riesce a percepirle. No, negativo, non si sente nulla. Ah, è possibile che non lo senti. Io non lo sento, se no non te l'avrei detto che lo sentivo. Zero totale anche qua. Forse l'antenna non è tanto performante. No, dici che non lo sentiamo. E allora c'è la massa fatta male, sicuramente. Ho qualche filo staccato, perché non si sente nulla, proprio niente. Lasci la bobina nella Turbo 2001 che a volte si può staccare il filo. E questo arrivando sempre bene. Arrivi Santiago 6, dai. Qui Santiago 4, però ancora capibile, K. Facciamo Santiago 8, perché questo qui è secco, lo smitter. No, ma io non ho due prevate, ne ho 20, quindi non è quello il problema è suo che non esce. E quanti saranno i watt? Saranno 4, ma con 4 watt dal portatore sì, io parlavo. Ma vabbè, non è così, no. È l'antenna che sicuramente c'ha qualche problema. O non c'ha massa, oppure da comprare la bobina che non si sia staccato il filo, qualche cosa del genere. Non è possibile. Poteva arrivare anche Santiago 3 o 4, ma arrivava. Invece qua non lo sentiamo proprio nulla, né di segnale né di radio. E senza contare che la propagazione si sta di nuovo alzando, Qua la propagazione è Santiago 3. Sento dei segnalini bassi. E noi siamo pronti a parlare, cavagala. E oggi la bobina controllali, che non si sia staccato il filo. Comunque hai visto che differenza tra un impianto camper CB e un altro? Poi dipende dove è l'antenna, potrebbe averla al parafango che è penalizzato, potrebbe averla anche sul tetto ma essere più corta, non lo so qual è, che antenna può avere. Vabbè. Ma io buttateci tutto, forza. E poi tu vai a raccoglierti la roba, no? Ciao Gianni. Ciao, ben sentito, ciao. Buonasera a tutti, sento Pio Pio qua, Eugenio. Se non mi copia, fatemi la ponte e salutatelo. Cappa, già ti copio, dai. Proprio Eugenio, lo senti a Franco? Frank. Ciao G, stammi bene, dai. Se riprendi da casa, poi ci sentiamo, dai. Cappa, cappa, buon corretti, avanti Marco. Cappa, c'è Eugenio. Santiago 4, ultimo segnale. Ok, vai Gianni. Buonasera a tutti, comunque. Qua c'è già adesso, non so che ci sia in ruota, comunque dai. Un saluto generale a tutti, sta arrivando un bel fronte di aria bella nieta, non si prevede niente di buono. Ma sì, già nel Brofetta, te l'ho confuso con Franco della stazione. Affermativo, affermativo. Chi, Franco Binario? Sì, poi va bene, là. Può succedere dopo tanto tempo che non ci si sente già. Già non ci sono problemi, figurati. Troia, stavo dicendo che in arrivo ho aria veramente bassa. sì, vedo. Cacchio, ho fatto bene a non andare in campagna. Mi poco fa era al telefono Gianni con mia zia, volevo sapere cosa devo fare, se scendevo anch'io. Invece vedo che davvero si stanno scurendo un po' le nuvole. E poi, come ho detto prima, sentivo ogni tanto questa scarica elettrica brevissima, sa, eppure non sentivo tuoni. E invece sta arrivando proprio da lì, da dove era Eugenio, da giù sta arrivando la roba. Succede quando ci sono cariche elettrostatiche nell'aria. Che bagara. Avanti, Gianni Lubrofetta. Proprio Eugenio stava chiedendo di te l'altro giorno, se ti avevamo più sentito, che era da molto che non ti sentiva, e adesso se n'è andato, vabbè. Non so se abbia chiuso o se riprenda. Riprendi già. Eia, vabbè, no. Sto facendo altro e sinceramente parlando poca è la voglia, quindi più o meno le cose adesso stanno così. Piuttosto una curiosità per Marco, ma hai cambiato il microfono o hai fatto qualche modifica? Allora, a parte il mal di gola mio, al momento sto usando un MB+5, ZGMB+5, aspetta che te lo faccio sentire, non sia che influisca, regolato a 6, volume microfonico a 6, tutto lì. Sto cercando di sfruttarmi un po' le amplificate, perché sennò è inutile averli comprati. Com'è? No, va bene, ha una timbrica diversa dal solito rispetto agli altri che usavi, adesso non so, cioè magari il palmare in dotazione, poi la radio, cos'è il 3009? Cappa, Superstar 3009, old diciamo, quello con i componenti classici. Già fa bene sia il segnale che la radio, Marco, era giusto perché la sonorità ha un timbro completamente diverso rispetto alle tue modulazioni classiche, dai, niente di che, tutto roggero come si dice, avanti già. Rudallero. Mi arrivi due. Tonino Cavattappi, avanti. Cappa, buonasera a Totoso. Buonasera. E all'ombra? All'ombra tutto il sole. Ciao la profeta, ciao Marco Lisa, ciao Gianni. Vai per chi vuoi, dai, c'è anche Gianni Lubrofetta, non so se tu l'hai mai sentito. Cappa, che l'ho sentito altre volte. Avanti Lubrofetta, come mi senti? Buonasera Tonino, bello tutto sparato di radio, amplificato a bomboletta. Vabbè, il microfono più buono, dai. Buonasera Tonino, abbi pietà di noi, abbassa un po' il mic se puoi. Aspetta, così va bene, 1, 2, 3. Mi sta spaccando i timpani, e meno male che il volume è basso. Dai, cerchiamo di abbassare così, dai. Va bene, così ho abbassato. Dai, Gian, vabbè. Ok. Comunque vedi Gianni, la timbrica, come ho detto io, ho il microfono, quando cambia il microfono ognuno ha la sua timbrica, però quello che dico io, il microfono deve essere neutro, deve essere come esce Franco Binario, che è limpido, cioè non ha timbriche metalliche né plasticose, proprio neutro, eccezionale, con quel con lo sciure, mi. Ma lo sciure costa, lo stavano vendendo uno l'altro giorno, ma volevano me dirà. Ma Gianni, quelle sono speculazioni, cioè te lo fanno pagare quanto costava da nuovo negli anni 80, non capito, però un microfono che ormai c'ha 40 anni e più. E mi pare volevano 200 euro, una cosa del genere. Sì, digli di attaccarselo. C'è gente che mette prezzi esorbitanti, capito? Un Galaxy 350, 400 euro, ho visto. E mettono, vabbè, adesso prenderanno valore perché poi li troverai sempre di meno, eh. Sì, lo so, però non è un quadro, non è un'opera d'arte, è tecnologia che va a decadere, a avere malfunzionamenti, come dico io. Poi vabbè, ognuno può fare il prezzo che vuole, però vabbè, io poi sono molto restio a comprare roba usata, come vedete cerco sempre di prendere il nuovo. Roba usata poco mi fido, perché le pochissime volte, anche sui forum, sul noto forum, una cosa ho comprato e una cosa non funzionava. E come sempre li contatti e dicono, ma è strano, però funzionava, ho detto, vabbè, ho capito l'antifona. Ciao, chiuso, mai più acquisti da forum né quant'altro, capo. Vai il profeta. Eia. No, per Tonino. Adesso la radio va meglio. Cosa succede? Che con l'amplificazione troppo alta nel microfono ti rientra il reverbero della stanza e l'audio è un po' confuso, capito? Sono io che parlo veloce, ecco il problema. Comunque Marcolis ha ragione da una parte e l'altra parte niente, io penso l'ho preso da una persona che conosco, non l'ho fatto arrivare da fuori e poi prima l'ha fatto provare, dirò che è un suo microfono, poi col Galaxy sposa molto bene lo Shure, non riprende nessuno. Tu usi troppo alto, capito? Non lo diciamo Tony perché ti vogliamo fare abbassare la radio, ma perché non si capisce, quando è troppo alto non si capisce, invece adesso vedi come le parole sono più scandite, si capisce bene. E anche la mia timbrica della voce che è alta, capito? Vuol dire molto anche quello. Io vedi, se metto un altro microfono da tavolo, vedrai che è ultima, più chiara, più d'accordo. Questa è più sparata, perché giustamente lo sciure non c'è niente da dire, capito? Tutto qua. E allora, l'ubrofè. Facciamo una cosa, ti do le bevi più 4 e tu mi dai lo sciure, così almeno a me mi si addice. Ma ce l'ho io le bevi più 4, Gianni. Se vuoi te lo metti in questo momento, Sto scherzando. E voi? Immagini con lo sciure. E intanto ho fatto la bucata. E Gianni è sempre così, capito? Cioè, la prima volta che mi ha sentito quando prima o poi quello lì viene qua. Sì. Ah, stavo scherzando. No, io questo ripeto. Allora, un microfono come questo, che è perfetto, è tutto per tutto, meno di 130-140 non si può dare. Cioè, di meno no. Poi, Tony, cosa ti volevo dire? Tu per dire, io te ti ho sentito con altri microfoni, col Turner uscivi bene, non dava problemi, ti sentivamo bene di radio, era forte, però invece lo Shure non ti si addice, nel senso che tu lo alzi troppo e quando lo alzi troppo parlando come parli tu in fretta sembra una macchinetta. Infatti è questo, se io mi compro un Ferrari non posso andare a 40 km orari, giusto no? Questo lo Shure non posso andare passo. Adesso ho fatto uno sforzo, metterò a un quarto. Tony, ma è inutile che tu abbia la Ferrari per poi, cazzo, cioè non farla andare come deve andare, perché poi se tu lo alzi troppo non si capisce un cavolo, è inutile che tu esci forte per poi non capirsi nulla. Ma hai visto quelle continente come arrivava a bomboletta proprio, sbombe, con questo microfono? Ehi vabbè, ma arriviamo tutti bene, dai, non c'è problema. Sono arrivato a 9.30 a Napoli io. Adesso ho messo l'MPU4 da tavolo. Vedi la radio com'è? Bella chiara. Sì, ma lo sciure, sciure. E torna. Vabbè. Tanto è la tua. Cioè, io non te lo sto dicendo tu lì perché ti voglio far abbassare il microfono, è per fartelo migliorare. No.